Dunque, ogni volta che non seguiamo il nostro naturale livello evolutivo, che è quello spirituale, siamo pigri, quella è la vera pigrizia. Allora c'è la doverizzazione. La doverizzazione in che senso? Perché tu hai fatto questa associazione che mi sembra molto bella, di associare la pigrizia alla doverizzazione, e hai detto i doveri li hanno inventati gli esseri umani. Gli animali non sono pigri, gli animali non hanno doveri. Quindi, ok, Fanno davvero il gatto fa il gatto. mentre invece da noi è venuto fuori questa forma di nevrosi, che è la pigrizia, che è legata alla sua altra forma di nevrosi, che è il dovere. Allora, poi mi dici che la persona è pigra nel non evolvere evolutivamente, ma allora l'evoluzione personale non può essere legata al dovere, deve essere una cosa spontanea che avviene con i suoi tempi, spontaneamente, perché finché non avviene è perché c'è ignoranza, non perché c'è pigrizia, come dire, piano piano, e quindi non perché c'è Penso, dovere, perché vorrei chiarire bene, non c'è il dovere di evolvere, c'è nessun dovere. È la naturale conseguenza delle cose. Un gattino non ha il dovere di giocare, gli viene spontaneo. Ma il gattino non è stato in una cultura in cui gli hanno imposto determinate cose. Cioè, negli esseri umani, da 10.000-8.000 anni a questa parte, si è creata una nevrosi collettiva, per cui alcuni hanno cercato di dominare gli altri. Quindi noi siamo in un campo di forze che non è naturale, è già culturale, in cui se non ci stiamo attenti ci finiamo tutti ovviamente, anzi sicuramente ci finiamo tutti, per cui la nostra psiche è divisa tra una parte che dice devi fare questo e un'altra parte che dice non ci penso nemmeno. Entrambe le parti sono nevrotiche, sia quella che dice che devi fare, sia quella che dice non devi fare, è la danza che non va bene. Dentro l'essere umano, come dentro un gatto, c'è la naturale tendenza a fare l'essere umano e quindi a sviluppare le sue potenzialità, che nell'essere umano non si limitano alle cose materiali, proprio perché l'essere umano ha fatto un salto evolutivo rispetto agli animali e ha sviluppato cultura e ha sviluppato livello spirituale. Ora, la spiritualità da cosa è impedita? È impedita dalla lotta nevrotica tra i doveri e l'opposizione ai doveri. Sia chi dice cosa devi fare, sia chi dice non ci deve, non, vietato vietare, sono parte della stessa danza. Chi dice che sei pigro sta mostrando la pigrizia, perché mentre dice sei pigro, cosa sta dicendo? Ci sono dei doveri che tu devi compiere, ma proprio dicendo così alimenta la pigrizia nel mondo. Per uscire dalla pigrizia, come si fa? Smascherando la danza distruttiva dell'autoritarismo, del rapporto a doveri. Ribellione e pigrizia. Questo è molto difficile, per farlo occorre un salto evolutivo. Salto evolutivo rispetto alla cultura dentro cui siamo, che è costruita così, come uno che impara la lingua italiana, poi è naturale parli la lingua italiana, è chiaro che non parla cinese. Ora, per gli esseri umani parlare italiano, cinese va bene, è la stessa cosa. Ma non è la stessa cosa se un essere umano si forma a un livello evolutivo più basso. Perché sarebbe come se un gatto, per esempio, non sviluppasse la capacità di saltare, non avrebbe sviluppato tutto se stesso, avrebbe sviluppato solo un pezzo. E così l'essere umano, sviluppa solo una parte minima del suo potenziale perché è imbrigliato in una lotta senza quartiere. Una lotta che in primo luogo è interna e che però proviene, che è rispecchiata nel mondo esterno, cioè il mondo esterno e il mondo interno si rispecchiano reciprocamente. Allora, gli intellettuali hanno fatto fino ad oggi molto poco per aiutare il mondo a liberarsi da questa infamia. Devo dire che uno dei pochi è Rosenberg, che ha chiarito benissimo questo aspetto e che dice che ogni volta che noi adempiamo un dovere per dovere, qualcun altro pagherà il prezzo. Perché? Perché semplicemente stiamo attivamente praticando la danza. E allora uno dice, ma allora libera il mondo che si... Chi si contrappone ai doveri? No, la stessa cosa. Chi si oppone ai doveri pratica la stessa danza di chi li adempie. Uscire da questa danza significa comprendere le radici dell'autoritarismo e le radici della schiavitù e le radici della peste psichica che impedisce agli uomini di amare. È tutto qua. Quindi il compito di un intellettuale oggi che fosse sano e che non fosse preda della separatività sarebbe solo questo. Come portare nel mondo la capacità di distinguere i livelli evolutivi e di capire quali sono i passaggi che noi possiamo compiere per andare verso la gioia e l'amore, anziché praticare danze distruttive che la nostra cultura ci ha insegnato.